Il 17 novembre del 1983 nasceva l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Il primo gruppo era composto da 6 persone, 3 meticci, 3 indigeni, 5 uomini e una donna. Il primo gruppo entrava nella selva lacandona dopo diversi giorni di viaggio, un viaggio iniziato il 10 novembre di quel 1983. A svelare i primi dettagli sulla nascita delle ZLN fu il subcomandante insurgente Marcos in un suo testo nel 2003, di cui sentiamo un estratto. Pido se nos permite imaginar que un día como hoy. Chiedo che ci sia permesso di immaginare che in un giorno come oggi, nel 1983, un gruppo di persone, in una casa sicura, stavano preparando gli attrezzi che avrebbero portato sulle montagne del Sud del Messico. Forse si passava la giornata a verificare gli impedimenti, a raccogliere segnalazioni sulle strade, sui percorsi alternativi, sugli orari, dettagliando itinerari, ordini, dispositivi. Forse era proprio a quest'ora che stavano salendo su un veicolo e avrebbero iniziato il viaggio verso il Chiapas. Se potessimo essere lì, forse chiederemmo a quelle persone cosa avrebbero fatto e sicuramente ci avrebbero risposto: fondare l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Avevamo aspettato 15 anni, avevano aspettato 15 anni per pronunciare quelle parole. Supponiamo allora che inizino il loro viaggio il 10 novembre del 1983. Pochi giorni dopo giungono al termine di una strada sterrata, scaricano le loro cose, salutano l'autista con un "a dopo" e dopo aver sistemato gli zaini iniziano la salita in uno dei monti che attraversano e inclinano ad ovest la selva lacandona. Molte ore dopo aver camminato con circa 25 kg di peso sulle spalle, hanno allestito il loro primo accampamento, già all'interno delle montagne. Sì, è possibile che quel giorno facesse freddo e piovesse anche. Quel giorno la notte è avanzata sotto i grandi alberi e, aiutati da lampade a mano, questi uomini e donne montano un tetto di plastica con una corda come traversa, legano le loro amache, cercano legna secca e, dando fuoco a un sacchetto di plastica, accendono il falò. Alla luce di ciò, il comandante scrive sul suo diario di accampamento qualcosa del tipo: 17 novembre 1983, tanti metri sopra il livello del mare, piovoso, abbiamo allestito il campo, niente di nuovo. Nella parte in alto a sinistra della pagina su cui scrive appare il nome che è stato dato a quella prima tappa di un viaggio che tutti sanno essere molto lungo. Non c'è stata alcuna cerimonia particolare, ma quel giorno, in quell'ora, è stato fondato l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Sicuramente qualcuno ha poi proposto un nome per quel campo, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che questo gruppo era composto da 6 persone, i primi 6 ribelli, 5 uomini e una donna. Di questi 3 erano meticci e 3 erano indigeni. La proporzione 50% meticci e 50% indigeni non si è ripetuta negli anni a seguire delle ZLN, così come non lo è stata la proporzione delle donne, meno del 20% in quei primi giorni. 20 anni dopo, nel 2003, quel 17 novembre, la percentuale deve essere del 98,9% di indigeni e dell'1% di meticci. La percentuale delle donne è ormai vicina al 45%. Come si chiamava il primo campo delle ZLN? I primi 6 ribelli non sono d'accordo su questo punto, come ho appreso in seguito. I nomi dei campi venivano scelti senza alcuna logica e le norme apocalittiche o profetiche venivano naturalmente spontaneamente evitate. Nessuno di loro si chiamava, ad esempio, 1 gennaio 1994. Secondo quanto raccontano i primi 6, un giorno mandarono un ribelle ad esplorare un luogo per vedere se c'erano le condizioni per accamparsi. Il ribelle è tornato dicendo che il posto era un sogno. I compagni marciarono in quella direzione e quando arrivarono trovarono una palude. Poi dissero al loro compagno: questo non è un sogno, un incubo. Ergo, il campo allora si chiamava l'incubo. Doveva essere stato nei primi mesi dell'84. Quell'insorto si chiamava Pedro. Successivamente sarebbe stato sottotenente, tenente, secondo capitano, primo capitano e vicecomandante. Con quel grado, ed essendo capo di stato maggiore zapatista, 10 anni dopo cadde in combattimento il 1 gennaio 1994 nella presa de las Margaritas, Chiapas. Con ese grado y siendo jefe del Estado Mayor Zapatista, 10 años después, cayó en combate el 1 de enero de 1994 en la toma de las Margaritas, Chiapas, México. Una storia lunga e articolata che gettava la sua base dentro quella delle Fuerzas de Liberación Nacional, un gruppo politico militare colpito dalla guerra zozza degli anni 70 che subì la violenza dello Stato, un gruppo fondato nel 1969. Lo stesso subcomandante Marcos, durante l'altra campagna nel 2006, così parlò e presentò il legame tra le due realtà. In Monterrey, Nuevo León, hace más de 37 años, un pequeño grupo de personas nacieron lo que llamaron Fuerzas de Liberación Nacional. Desde su origen, la dotaron de una ética de lucha que después heredaríamos quienes somos parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A Monterrey, Nuevo León, più di 37 anni fa, nacque un piccolo gruppo di persone che chiamarono Fuerzas de Liberación Nacional. Fin dalle sue origini gli hanno dato un'etica di lotta che noi, che facciamo parte dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, avremo poi ereditato. Nei rapimenti, nelle aggressioni erano una fonte delle loro risorse. Invece hanno sostenuto la loro economia e la loro dimensione grazie al lavoro politico tra la popolazione sfruttata, espropriata, disprezzata e repressa. Né azioni spettacolari né colpi di mano segnarono il loro cammino. Invece hanno alimentato quello che hanno chiamato accumulo di forze nel silenzio, aspettando il momento in cui il popolo, il nostro popolo, avrebbe avuto bisogno degli sforzi modesti di un'organizzazione caratterizzata dalla frase del generale insorto Vicente Guerrero, di vivere per la patria o morire per la libertà. Per non stabilirsi dove avevano il sostegno, la conoscenza, l'abitudine di vivere, lavorare e combattere, ma per attraversare il paese e raggiungere l'ultimo angolo della nostra patria, le montagne del sud-est messicano. Non per ingannare, ma per dire la verità sui percorsi e sulle difficoltà. Non il culto della morte, sia essa estranea o propria, ma la lotta per la vita, ma per una vita migliore di chi conosce solo la dolorosa sopravvivenza, di chi non ha nulla. Non per copiare manuali e importare storie e teorie, analisi ed esperienze straniere e strane, ma per arricchire le scienze e le arti della lotta con la storia del Messico e l'analisi della nostra realtà concreta. Non imporre, né con le armi né con gli argomenti, la propria idea, ma piuttosto ascoltare, imparare, convincere, crescere. Non seguire il calendario sopra, ma costruirci il calendario qui sotto. Non lasciatevi imporre dalle situazioni altrui, ma lavorate per avere la possibilità di crearne di vostre, in basso, a sinistra. L'etica del guerriero forgiato in una casa della città di Monterrey, Nuovo León, in Messico, si ritroverà anni dopo con l'etica dei guerrieri con radici maya nelle montagne del Chiapas. Da quella mistura nascerà non solo l'esercito zapatista di liberazione nazionale, ma anche la parola fatta arma, scudo e spada dei più dimenticati della patria, i popoli indios zapatisti. Ho detto prima che noi zapatisti siamo molto diversi. In questa alterità abbiamo la convinzione che la terra partorisca di volta in volta una generazione di uomini e donne a cui affida un compito specifico, una missione speciale, diciamo noi militari. Gli uomini e le donne che negli anni 60, 70 e 80 hanno lasciato tutto per non avere nulla sono le nostre madri e i nostri padri. Li chiamiamo la generazione della dignità, la generazione il cui scopo era nascere da noi ed ereditare il meglio della loro storia personale e collettiva per formare non insegnanti, leader o comandanti, ma studenti dedicati e disposti a imparare da quelli di seguito, che sono quelli che sono: indigeni, contadini, operai, impiegati, anziani, donne, giovani, ragazzi e ragazze. Se non sei con noi adesso per questo compleanno, non è perché non l'hai pianificato. La loro assenza è sempre stata una possibilità alta nel percorso e nel passo che hanno scelto, affinché potessimo seguirlo. E a questo punto del gioco continuiamo a renderci conto che gli stivali di queste donne, di questi uomini, sono ancora troppo grandi per noi. E forse questo serve a spiegare la nostra goffaggine e i nostri inciampi. Sigamos constatando che las botas de estas mujeres y hombres nos siguen quedando grandes. Y tal vez eso sirva para explicar nuestras torpezas y tropiezos. La storia delle Forze di Liberazione Nazionale è stato oggetto anche di documentari e di una serie di libri pubblicati da alcuni dei loro fondatori. Un estratto di un documentario intitolato L'insurrezione della memoria, una testimonianza delle Fuerzas de Liberación Nacional. Sin embargo, muchos grupos se reorganizan y continúan, con muchas dificultades su lucha. En este panorama nace una organización que optará por el más estricto clandestinaje. Sono gli anni della riorganizzazione. E in questo periodo un gruppo sceglierà la via estrema della clandestinità. A Monterrey un gruppo di giovani studenti si inserisce nelle lotte studentesche e sono tra i fondatori del Movimento di Liberazione Nazionale, organizzazione frontista nata nel 1961 e che aveva come obiettivo una lotta pacifica per la democrazia e la sovranità in Messico, una lotta contro l'imperialismo a stelle e strisce e in difesa della rivoluzione cubana. La loro scelta di darsi alla clandestinità inizierà più avanti, inizierà nel 1968 quando si uniranno all'esercito ribelle messicano che si installa nella selva Lacandona e sarà sconfitto dall'esercito ufficiale. I sopravvissuti e le sopravvissute torneranno a Monterrey e decideranno di proseguire con il progetto rivoluzionario e così il 6 agosto del 1969 sopravviventi clandestini di liberazione a Monterrey deciden darle continuidad al proyecto guerrillero. El 6 de agosto de 1969, 9 jóvenes conforman las Fuerzas de Liberación Nacional. El joven abogado César Yáñez será electo primer responsable. Con la experiencia acumulada, emprenden una nueva estrategia, la acumulación de fuerzas en silencio. El objetivo, impulsar una guerra de liberación nacional con la creación de un ejército del pueblo. L'obiettivo del gruppo è iniziare una guerra di liberazione nazionale con un esercito popolare che lotti per tutti gli sfruttati e tutte le sfruttate, per chi non ha terra, casa e lavoro. Su trabajo y su destino. Per 10 anni le ZLN preparano l'insurrezione. La scelta di iniziare la via armata il 1 gennaio 1994 sarà maturata in questo decennio anche grazie alla messa in discussione della stessa storia delle Fuerzas, da movimento marxista-leninista alla sperimentazione di una modalità spuria che mescolava la storia militante delle Fuerzas de Liberación Nacional con le rivendicazioni indigene e la loro cosmogonia. Come teorizzavano le Fuerzas, la crescita e la costruzione dell'insurrezione avvenne nel silenzio. In silenzio interrotto solo da una sparatoria nel maggio del 1993 quando l'esercito messicano trovò e distrusse un campo militare. Ma le autorità non diedero peso alla notizia, per poi ritrovarsi totalmente impreparati il 1 gennaio 1994. Chiudiamo questo primo podcast sulla storia delle ZLN con alcune voci raccolte da una comunità indigena che ha fatto per anni parte dell'organizzazione. Bueno, el primer recuerdo sería cuando tenía yo casi 9 años. Recuerdo que mis papás salían de casa para ir a la reunión y yo también. Quería yo ver qué es lo que hacían y yo iba atrás de ellos y así empecé a entrar, ¿no?, a las reuniones. Ese es el primer recuerdo que tengo, pues sería el año del 1992. Il mio primo ricordo è di quando avevo 9 anni. Mio papà andava alle riunioni e io lo seguivo. Così ho iniziato ad entrare piano piano nell'organizzazione. Era il 1991, il 1992 e sono i miei primi ricordi. Mi sembrava tutto molto bello perché imparavo cose sull'autonomia. Non so quando iniziarono le riunioni nella mia comunità. Le prime probabilmente già nel 1983. Io me li ricordo le riunioni, quelle dal 91 al 93, e anche la decisione di prendere le città il 1 gennaio del 94. Gli zapatisti hanno ottenuto di vivere in autonomia. La cosa ha cambiato la vita di molte e molti, perché senza il governo ufficiale, con l'autogoverno autonomico, abbiamo migliorato la salute e la sanità, per esempio. Si è allungata la vita media di chi vive nelle comunità. Certo, i cambi nell'organizzazione sono stati importanti e non tutti ne sono rimasti convinti e contenti, ma è rimasto il lavoro collettivo, il rispetto per la madre terra e l'esempio importante per tantissimi aspetti di lotta, di organizzazione, un esempio e una pratica utile non solo per gli indigeni del Chiapas e quelli zapatisti e le zapatiste, ma per il paese tutto. Di fatto è come se qui è stata accesa una luce che ha illuminato altri popoli e altre comunità che oggi lottano. El no estar esperanzados de que el sistema del gobierno apoya las comunidades, sino la comunidad vive en autonomía y eso ha logrado sobrevivir y ha dado un cambio de vida en los últimos 30 años, ¿no? Porque se enferma menos las personas, pues tienen alimentos, ¿no? Que es lo más indispensable. Bueno, siempre hay pues la modernización, ¿no? del tema del zapatismo, ¿no? Muchos que no, pues tal vez hayan visto o vivido las primeras etapas zapatistas, tal vez piensan un poco diferente, pero como los trabajos colectivos siempre se siguen haciendo, entonces los niños y los que van llegando, pues de alguna manera se integran y es una buena idea, ¿no? Del trabajo en colectivo y sobre todo el respeto a la madre tierra, el ser autónomo, pues es muy importante ahora. Entonces para México ha sido muy importante el tema de los pueblos autónomos, porque de esa manera se han logrado rescatar mucho la cultura, las plantas medicinales, las ideas, la forma de organizarse en cada comunidad. Eso les ha ayudado a muchos pueblos en todo México, porque lo que se hizo aquí es como una luz y de ella pues tomaron muchas comunidades, muchos pueblos que hoy están en lucha. Bueno, los recuerdos pues cuando se hubo la lucha, el movimiento, pues. Mi ricordo quando è iniziata la lotta e che l'esercito ha mandato forze per sconfiggere chi si era alzato in armi, ma le comunità si sono organizzate, hanno difeso il processo, così che il governo non ha potuto fiaccare la lotta. Anzi, devo dire che parti dell'esercito iniziarono a rispettare la nostra opzione. Questo è il ricordo che ho. Rispettarono a los pueblos indígenas, pues. Es el recuerdo que hubo del movimiento zapatista, que entre hombres y mujeres pues se defendieron. Entonces es el recuerdo que tenemos hasta hoy en día. Così si chiude questo primo podcast sui 40 anni di storia dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. De todos los esfuerzos de los zapatistas, hombres, niños, niños y mujeres, siempre el esfuerzo siempre haremos con la jueves, niños, hombres, siempre los juntos, todos juntos con el sueño. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra paz.